ha preso la mano per andare via. Lontano da me un lampo negli occhi via, la cieca fortuna. E tu ridi, porta il vento, forse si avvicina la cieca fortuna. Scontate scuse come il sole la mattina. Lontano mi persi nel fuoco dei sensi miei. Ora il sole non tramonta mai, e quel sole su noi aiuta i sinceri tuoi vent'anni. Perdonerò perché li sono lontani. Il sole si avvicina.